Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Decima puntata. Le piccole virtù. Per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnare loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro. Non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo. Non l'astuzia, ma la schiettezza e l'amore alla verità. Non la diplomazia, ma l'amore al prossimo e l'abnegazione. Non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere. Di solito invece facciamo il contrario. Ci affrettiamo a insegnare il rispetto per le piccole virtù, fondando su di esse tutto il nostro sistema educativo. Scegliamo in questo modo la via più comoda, perché le piccole virtù non racchiudono alcun pericolo materiale e anzi tengono al riparo dai colpi della fortuna. Trascuriamo di insegnare le grandi virtù e tuttavia le amiamo e vorremmo che i nostri figli le avessero, ma nutriamo fiducia che scaturiscano spontaneamente nel loro animo, un giorno a venire, ritenendole di natura istintiva, mentre le altre, le piccole, ci sembrano il frutto di una riflessione e di un calcolo e perciò noi pensiamo che debbano essere assolutamente insegnate. In realtà la differenza è solo apparente. Anche le piccole virtù provengono dal profondo del nostro istinto, da un istinto di difesa. Ma in esse la ragione parla, sentenzia, disserta, brillante avvocato dell'incolumità personale. Le grandi virtù sgorgono da un istinto in cui la ragione non parla, un istinto a cui mi sarebbe difficile dare un nome. E il meglio di noi è in quel muto istinto, e non nel nostro istinto di difesa che argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. L'educazione non è che un certo rapporto che stabiliamo fra noi e i nostri figli, un certo clima in cui fioriscono i sentimenti, gli istinti, i pensieri. Ora io credo che un clima tutto ispirato al rispetto per le piccole virtù maturi insensibilmente al cinismo o alla paura di vivere. Le piccole virtù in se stesse non hanno nulla da fare col cinismo o con la paura di vivere, ma tutte insieme e senza le grandi generano un'atmosfera che porta a quelle conseguenze. Non che le piccole virtù in se stesse siano spregevoli, ma il loro valore è di ordine complementare e non sostanziale. Esse non possono stare da sole senza le altre e sono da sole senza le altre per la natura umana un povero cibo. Il modo di esercitare le piccole virtù, in misura temperata e quando sia del tutto indispensabile, l'uomo può trovarlo intorno a sé e berlo nell'aria, perché le piccole virtù sono di un ordine assai comune e diffuso tra gli uomini. Ma le grandi virtù, quelle non si respirano nell'aria e debbono essere la prima sostanza del nostro rapporto con i nostri figli, il primo fondamento dell'educazione. Inoltre, il grande può anche contenere il piccolo, ma il piccolo, per legge di natura, non può in alcun modo contenere il grande. Non giova che cerchiamo di rammentare e imitare nei rapporti con i nostri figli i modi tenuti dai nostri genitori con noi. Quello della nostra giovinezza e infanzia non era un tempo di piccole virtù. Era un tempo di forti e sonore parole, che però poco a poco perdevano la loro sostanza. Ora è un tempo di parole sommesse e frigide, di sotto alle quali forse raffiora il desiderio di una riconquista. Ma è un desiderio timido e pieno di paura del ridicolo. Così ci rivestiamo di prudenza ed astuzia. I nostri genitori non conoscevano né prudenza né astuzia. Non conoscevano la paura del ridicolo. Erano inconseguenti e incoerenti, ma non se ne accorgevano mai. Si contraddicevano di continuo, ma non ammettevano mai d'essersi contraddetti. Usavano con noi un'autorità che noi saremmo del tutto incapaci di usare. Forti dei loro principi, che credevano indistruttibili, regnavano con potere assoluto su di noi. Ci assordavano di parole tuonanti. Un dialogo non era possibile perché appena sospettavano d'aver torto ci ordinavano di tacere. Battevano il pugno sulla tavola facendo tremare la stanza. Noi ricordiamo quel gesto, ma non sapremo imitarlo. Possiamo infuriarci, urlare come lupi, ma in fondo, alle nostre urla di lupo, c'è un singhiozzo isterico, un rauco belato d'agnello. Noi dunque non abbiamo autorità, non abbiamo armi. L'autorità in noi sarebbe un'ipocrisia e una finzione. Siamo troppo consapevoli della nostra debolezza, troppo malinconici e malsicuri, troppo consci delle nostre inconseguenze e incoerenze, troppo consci dei nostri difetti. Abbiamo guardato troppo in fondo dentro di noi e abbiamo visto in noi troppe cose. E poiché non abbiamo autorità, dobbiamo inventare un altro rapporto. Oggi che il dialogo è diventato possibile fra genitori e figli, possibile, benché sempre difficile, sempre carico di prevenzioni reciproche, di reciproche timidezze e inibizioni, è necessario che noi ci riveliamo, in questo dialogo, quali siamo. Imperfetti. Fiduciosi che loro, i nostri figli, non ci rassomiglino, che siano più forti e migliori di noi. Poiché siamo tutti assillati in un modo o nell'altro dal problema del denaro, la prima piccola virtù che ci viene in testa di insegnare ai nostri figli è il risparmio. Regaliamo loro un salvadanaio, spiegando com'è bello conservare il denaro invece di spenderlo, in modo che dopo mesi ce ne sia molto, un bel gruzzolo di denaro. E come sia bello resistere alla voglia di spendere per poter comprare alla fine qualche oggetto di pregio. Ricordiamo d'aver ricevuto in regalo nella nostra infanzia un salvadanaio uguale, ma dimentichiamo che il denaro, il gusto di conservarlo, era al tempo della nostra infanzia meno orribile e sudicio di oggi. Perché il denaro, più passa il tempo, e più è sudicio. Il salvadanaio, dunque, è il nostro primo errore. Abbiamo installato nel nostro sistema educativo una piccola virtù. Quel salvadanaio di coccio dall'aspetto innocuo, a forma di pera o di mela, abita per mesi e mesi nella stanza dei nostri figli ed essi si abituano alla sua presenza. S'abituano al piacere di introdurre giorno per giorno il denaro nella fessura. S'abituano al denaro custodito là dentro, che là, nel segreto e nel buio, cresce come un seme nel grembo della terra. S'affezionano al denaro, dapprima con innocenza, come ci si affeziona a tutte le cose che crescono grazie al nostro zelo, pianticelle o bestioline, e sempre vagheggiando quel costoso oggetto visto in vetrina e che sarà possibile comperare, come noi gli abbiamo detto, col denaro così risparmiato. Quando infine il salvadanaio viene infranto e il denaro speso, i ragazzi si sentono soli e delusi. Non c'è più il denaro nella stanza, custodito nel ventre della mela, e non c'è più nemmeno la rosea mela. C'è invece un oggetto a lungo vagheggiato in vetrina e di cui noi gli abbiamo vantato l'importanza e il pregio, ma che ora, nella stanza, sembra grigio e disadorno, appassito dopo tanta attesa e dopo tanto denaro. Di questa delusione i ragazzi non incolperanno il denaro, ma l'oggetto stesso, perché il denaro perduto conserva nella memoria tutte le sue lusinghiere promesse. I ragazzi chiederanno un nuovo salvadanaio e un nuovo denaro da custodire e rivolgeranno al denaro dei pensieri e un'attenzione che male gli siano rivolti. Preferiranno il denaro alle cose. Non è male che abbiano sofferto una delusione, è male che si sentano soli senza la compagnia del denaro. Non dovremmo insegnare a risparmiare, dovremmo abituare a spendere, dovremmo dare spesso ai ragazzi un po' di denaro, piccole somme senza importanza, sollecitandoli a spenderle subito e come gli piace, seguendo un momentaneo capriccio. I ragazzi compreranno qualche minutaglia, che dimenticheranno subito, come dimenticheranno subito il denaro speso così in fretta e senza riflettere e al quale non si sono affezionati. Trovandosi fra le mani quelle minutaglie che saranno subito rotte, i ragazzi rimarranno un po' delusi, ma dimenticheranno rapidamente sia quella delusione e le minutaglie, sia il denaro. Anzi, associeranno il denaro a qualcosa di momentaneo e di stupido e penseranno che il denaro è stupido, come è giusto nell'infanzia pensare. È giusto che i ragazzi vivano nei primi anni della loro vita ignorando che cos'è il denaro. A volte questo è impossibile se siamo troppo poveri e a volte è difficile perché siamo troppo ricchi. Tuttavia, quando siamo molto poveri, quando il denaro è strettamente legato a un fatto di sopravvivenza quotidiana, a una questione di vita o di morte, allora esso si traduce così immediatamente agli occhi di un bambino in cibo, carbone o panni, che non ha il modo di guastargli lo spirito. Ma se siamo così così, né ricchi né poveri, non è difficile lasciare che un ragazzo viva nell'infanzia senza saper bene che cos'è il denaro e senza curarsene affatto. E tuttavia è necessario, non troppo presto e non troppo tardi, spezzare questa ignoranza. E se abbiamo delle difficoltà economiche, è necessario che i nostri figli, non troppo presto e non troppo tardi, ne siano messi al corrente. Così come è giusto che a un certo punto dividano con noi le nostre preoccupazioni e le nostre ragioni di contentezza e i nostri progetti e tutto quanto concerne la vita familiare. e abituandoli a considerare il denaro familiare come una cosa che appartiene a noi e a loro in egual misura, e non a noi piuttosto che a loro o il contrario, potremmo anche invitarli ad essere sobri, a stare attenti al denaro che spendono. E in questo modo l'invito al risparmio non è più rispetto per una piccola virtù, non è astratto invito a portare rispetto ad una cosa che non merita rispetto in se stessa come il denaro, ma è un ricordare ai ragazzi che non è molto il denaro di casa. È un invito a sentirsi adulti e responsabili di fronte a una cosa che appartiene a noi come a loro, una cosa non specialmente bella né amabile, ma seria, perché legata alle nostre necessità quotidiane. Ma non troppo presto e non troppo tardi. E il segreto dell'educazione sta nell'indovinare i tempi. Essere sobri con se stessi e generosi con gli altri. Questo vuol dire avere un rapporto giusto col denaro, essere liberi di fronte al denaro. E non c'è dubbio che nelle famiglie dove il denaro viene guadagnato e prontamente speso, dove scorre come limpida acqua di fonte e praticamente non esiste come denaro, è meno difficile educare un ragazzo ad un simile equilibrio, a una simile libertà. Le cose diventano complicate laddove il denaro esiste ed esiste pesantemente, acqua plumbea e stagnante che esala fermenti e odori. Presto i ragazzi avvertono la presenza in famiglia di questo denaro, potenza nascosta, di cui non si parla mai in termini chiari, ma alla quale i genitori alludono, discorrendo fra loro con nomi complicati e misteriosi, con una plumbea fissità negli occhi, con una piega amara sulle labbra. Denaro che non è semplicemente riposto nel cassetto dello scrittoio, ma grandeggia chissà dove e potrebbe da un momento all'altro essere risucchiato dalla terra, sparire senza rimedio per sempre, inghiottendo la famiglia e la casa. In simili famiglie i ragazzi vengono di continuo ammoniti a spendere con parsimonia. Ogni giorno la madre li invita all'attenzione e al risparmio nel consegnargli pochi spiccioli per il tram e c'è nello sguardo della madre quella plumbea preoccupazione, sulla sua fronte quella ruga profonda che sempre vi appare quando entra in argomento il denaro. C'è l'oscuro spavento che tutto il denaro si dissolva nel nulla e che anche quei piccoli spiccioli possano significare le prime polveri d'un crollo subitaneo e mortale. I ragazzi di simili famiglie non di rado vanno a scuola con abiti consumati e scarpe logore e debbono sospirare a lungo, a volte invano, per una bicicletta o per una macchina fotografica, oggetti che alcuni loro compagni, certo più poveri, posseggono da tempo. E quando poi gli viene regalata la bicicletta che desiderano, il regalo è però accompagnato dalla severa raccomandazione di non sciupare, di non prestare a nessuno un oggetto così di lusso e che è costato tanto denaro. I richiami all'economia in casa sono perenni e insistenti. C'è l'ordine di comprare i libri di scuola usati, i quaderni allo standard. Questo avviene in parte perché i ricchi spesso sono avari e perché si credono poveri, ma soprattutto perché le madri nelle famiglie ricche, più o meno inconsapevolmente, hanno timore delle conseguenze del denaro e cercano di proteggere i figli foggiandoli attorno a una finzione di abitudini semplici, perfino avvezzandoli a piccole privazioni. Ma non c'è sbaglio peggiore che far vivere un ragazzo in una simile contraddizione. Il denaro parla ovunque nella casa, è il suo linguaggio inconfondibile. È presente nelle porcellane, nella mobilia, nella pesante argenteria, è presente nei comodi viaggi, nelle sfarzose villeggiature, nei saluti del portinaio, nelle cerimonie dei servi, è presente nei discorsi dei genitori, è la ruga sulla fronte del padre, la plumbea perplessità dello sguardo materno. Il denaro è ovunque, intoccabile perché forse spaventosamente fragile, è qualcosa su cui non è consentito scherzare, un funebre dio a cui non ci si può rivolgere che con un sussurro. E per onorare questo Dio, per non molestare la sua luttuosa immobilità, bisogna portare il cappotto dell'anno prima diventato stretto, studiare la lezione sui libri sfasciati e cenciosi, divertirsi con la bicicletta del contadino. Se vogliamo educare i nostri figli, essendo ricchi, ad abitudini semplici, deve essere però ben chiaro che tutto il denaro risparmiato usando simili abitudini viene speso senza parsimonia per altra gente. Simili abitudini hanno un senso soltanto se non sono avarizia o timore, ma libera scelta in mezzo alla ricchezza della semplicità. Un ragazzo di famiglia ricca non impara la sobrietà perché gli si fanno portare dei vecchi vestiti, o perché gli si fanno mangiare a merenda delle mele verdi, o perché lo si priva di una bicicletta che desidera da lungo tempo. Quella sobrietà in mezzo alla ricchezza è una pura finzione, e le finzioni sono sempre diseducative. In questo modo imparerà soltanto l'avarizia e la paura del denaro. Privandolo d'una bicicletta che desidera e che potremmo comprargli, non faremo che frustrarlo d'una cosa legittima per un ragazzo. Non faremo che rendere meno lieta la sua infanzia in nome d'un principio astratto, senza giustificazione nella realtà. E tacitamente verremo ad affermare di fronte a lui che il denaro è migliore d'una bicicletta. E invece è necessario che lui sappia che una bicicletta è sempre meglio del denaro. La vera difesa della ricchezza non è la paura della ricchezza, della sua fragilità e delle viziose conseguenze che può portare. La vera difesa della ricchezza è l'indifferenza al denaro. Per educare un ragazzo a questa indifferenza non c'è altro modo che dargli del denaro da spendere, quando esiste denaro, perché impari a separarsene senza cruccio e senza rimpianto. Ma si osserverà che così un ragazzo s'abitua ad avere denaro da spendere e non potrà più farne senza. Se domani non sarà più ricco, come farà? Ma è più facile non aver denaro quando abbiamo imparato a spenderlo, quando abbiamo imparato come vola via in fretta fra le mani. È più facile fare a meno del denaro quando l'abbiamo ben conosciuto che non quando gli abbiamo tributato nell'infanzia reverenza e paura. Abbiamo sentito la sua presenza all'intorno e non ci è stato permesso di alzare gli occhi a guardarlo in viso. Appena i nostri figli cominciano ad andare a scuola, noi subito gli promettiamo denaro in premio se studieranno bene. È un errore. Noi così mescoliamo il denaro, che è una cosa senza nobiltà, ad una cosa meritevole e degna, qual è lo studio e il piacere della conoscenza. Il denaro che diamo ai nostri figli dovrebbe essere dato senza motivo, dovrebbe essere dato con indifferenza perché imparino a riceverlo con indifferenza e deve essere dato non perché imparino ad amarlo, ma perché imparino a non amarlo, a intenderne il vero carattere e la sua impotenza ad appagare i desideri più veri, che sono quelli dello spirito. Elevando il denaro alla funzione di premio, di punto d'arrivo, di obiettivo da raggiungere, noi gli diamo un posto, un'importanza, una nobiltà che non deve avere agli occhi dei nostri figli. Affermiamo implicitamente il principio falso che il denaro è il coronamento d'una fatica e il suo termine ultimo. Invece il denaro dovrebbe essere concepito come il salario di una fatica, non il suo termine ultimo, ma il suo salario, cioè il suo legittimo credito. Ed è evidente che le fatiche scolastiche dei ragazzi non possono avere un salario. È un errore minore, ma è un errore offrire denaro ai figli in cambio di piccoli servizi domestici, di piccole prestazioni. È un errore perché noi non siamo per i nostri figli dei datori di lavoro. Il denaro familiare è altrettanto loro quanto nostro. Quei piccoli servizi, quelle piccole prestazioni dovrebbero essere senza compenso, volontaria collaborazione alla vita familiare. E in genere credo si debba andare molto cauti nel promettere e somministrare premi e punizioni, perché la vita raramente avrà premi e punizioni. Di solito i sacrifici non hanno alcun premio e sovente le cattive azioni non sono punite, ma anzi a volte lautamente retribuite in successo e denaro. Perciò è meglio che i nostri figli sappiano fin dall'infanzia che il bene non riceve ricompensa e il male non riceve castigo. E tuttavia bisogna amare il bene e odiare il male, e a questo non è possibile dare nessuna logica spiegazione. Al rendimento scolastico dei nostri figli siamo soliti dare un'importanza che è del tutto infondata, e anche questo non è se non rispetto per la piccola virtù del successo. Dovrebbe bastarci che non restassero troppo indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami, ma noi non ci accontentiamo di questo. Vogliamo da loro il successo, vogliamo che diano delle soddisfazioni al nostro orgoglio. Se vanno male a scuola o semplicemente non così bene come noi pretendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la barriera del malcontento costante. Prendiamo con loro il tono di voce imbronciato e piagnucoloso di chi lamenta un'offesa. Allora i nostri figli tediati si allontanano da noi, oppure li assecondiamo nelle loro proteste contro i maestri che non li hanno capiti, ci atteggiamo insieme con loro a vittime di un'ingiustizia. E ogni giorno gli correggiamo i compiti, anzi, ci sediamo accanto a loro quando fanno i compiti, studiamo con loro le lezioni. In verità la scuola dovrebbe essere fin dal principio per un ragazzo la prima battaglia da affrontare da solo, senza di noi. Fin dal principio dovrebbe essere chiaro che quello è un suo campo di battaglia, dove noi non possiamo dargli che un soccorso del tutto occasionale e irrisorio. E se la subisce ingiustizia o viene incompreso, è necessario lasciargli intendere che non c'è nulla di strano, perché nella vita dobbiamo aspettarci d'essere continuamente incompresi e misconosciuti, e di essere vittime di ingiustizia. E la sola cosa che importa è non commettere ingiustizia noi stessi. I successi o insuccessi dei nostri figli noi li dividiamo con loro perché gli vogliamo bene, ma allo stesso modo, in ugual misura come essi dividono a mano che diventano grandi i nostri successi o insuccessi, le nostre contentezze o preoccupazioni. È falso che si abbiano il dovere di fronte a noi d'essere bravi a scuola e di dare allo studio il meglio del loro ingegno. Il loro dovere di fronte a noi è puramente quello, visto che li abbiamo avviati agli studi, di andare avanti. Se il meglio del loro ingegno vogliono spenderlo non nella scuola, ma in altra cosa che li appassioni, raccolta di coleotteri o studio della lingua turca, sono fatti loro e non abbiamo nessun diritto di rimproverarli, di mostrarci offesi nell'orgoglio, frustrati d'una soddisfazione. Se il meglio del loro ingegno non hanno l'aria di volerlo spendere per ora in nulla e passano le giornate al tavolino masticando una penna, neppure in tal caso abbiamo il diritto di sgridarli molto. Chissà, forse quello che a noi sembra ozio è in realtà fantasticheria e riflessione che domani daranno frutti. Se il meglio delle loro energie e del loro ingegno sembra che lo sprechino, buttati in fondo a un divano a leggere romanzi stupidi o scatenati su un prato a giocare a football, ancora una volta non possiamo sapere se veramente si tratti di spreco delle energie e dell'ingegno o se anche questo domani in qualche forma che ora ignoriamo darà frutti. Perché infinite sono le possibilità dello spirito. Ma non dobbiamo lasciarci prendere, noi genitori, dal panico dell'insuccesso. I nostri rimproveri debbono essere come raffiche di vento o di temporale, violenti, ma subito dimenticati. Nulla che possa oscurare la natura dei nostri rapporti coi nostri figli, intorpidarne la limpidità e la pace. I nostri figli, noi siamo là per consolarli se un insuccesso li ha addolorati. Siamo là per fargli coraggio se un insuccesso li ha mortificati. Siamo anche là per fargli abbassare la cresta se un successo li ha insuperbiti. Siamo là per ridurre la scuola nei suoi umili ed angusti confini. Nulla che possa ipotecare il futuro. Una semplice offerta di strumenti fra i quali forse è possibile sceglierne uno di cui giovarsi domani. Quello che deve starci a cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita. Esso può prendere diverse forme e a volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato di attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos'è la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita? Noi dobbiamo allora aspettare, accanto a lui, che la sua vocazione si svegli e prenda corpo. Il suo atteggiamento può somigliare a quello della talpa o della lucertola che se ne sta immobile, fingendosi morta, ma in realtà fiuta e spia la traccia dell'insetto sul quale si getterà con un balzo. Accanto a lui, ma in silenzio e un poco in disparte, noi dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito. Non dobbiamo pretendere nulla. Non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio, un artista, un eroe, un santo. Eppure dobbiamo essere disposti a tutto. La nostra attesa e la nostra pazienza deve contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino. Una vocazione, una passione ardente ed esclusiva per qualcosa che non abbia nulla da vedere col denaro. La consapevolezza di poter fare una cosa meglio degli altri e amare questa cosa al di sopra di tutto. È la sola e unica possibilità per un ragazzo ricco di non essere per nulla condizionato dal denaro, di essere libero di fronte al denaro, di non sentire fra gli altri né l'orgoglio della ricchezza né la sua vergogna. Egli non si accorgerà neppure degli abiti che porta, dei costumi che lo circondano, e domani sarà capace di qualunque privazione, perché l'unica fame e l'unica sete sarà in lui la sua passione stessa, che avrà divorato tutto quanto è futile e provvisorio. L'avrà spogliato di ogni abitudine o atteggiamento contratto nell'infanzia e regnerà sola sul suo spirito. Una vocazione è l'unica vera salute e ricchezza dell'uomo. Quali possibilità abbiamo noi di svegliare e stimolare nei nostri figli la nascita e lo sviluppo di una vocazione? Non ne abbiamo molte, e tuttavia ne abbiamo forse qualcuna. La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio, spazio e silenzio. Il libero silenzio dello spazio. Il rapporto che intercorre fra noi e i nostri figli deve essere uno scambio vivo di pensieri e di sentimenti e tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio. Deve essere un rapporto intimo e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità. Deve essere un giusto equilibrio fra silenzio e parole. Noi dobbiamo essere importanti per i nostri figli e tuttavia non troppo importanti. Dobbiamo piacergli un poco e tuttavia non piacergli troppo, perché non gli salti in testa di diventare identici a noi, di copiarci nel mestiere che facciamo, di cercare nei compagni che si scelgono per la vita la nostra immagine. Noi dobbiamo essere con loro in un rapporto d'amicizia, eppure non dobbiamo essere troppo i loro amici, perché non gli diventi difficile avere dei veri amici a cui possono dire cose che tacciano con noi. La loro ricerca d'amici, la loro vita amorosa, la loro vita religiosa, la loro ricerca d'una vocazione, è necessario che siano cinte di silenzio ed ombra che si svolgano in disparte da noi. Mi si dirà che allora la nostra intimità coi nostri figli si riduce a ben poca cosa, ma nei nostri rapporti con loro deve essere contenuto tutto questo per sommi capi, e la vita religiosa, e la vita dell'intelligenza, e la vita affettiva, e il giudizio sugli esseri umani. Noi dobbiamo essere per loro un semplice punto di partenza, offrirgli il trampolino da cui spiccheranno il salto, e dobbiamo essere là per soccorso, se un soccorso sia necessario. Essi debbono sapere che non ci appartengono, ma noi sì apparteniamo a loro, sempre disponibili, presenti nella stanza vicina, pronti a rispondere come sappiamo ad ogni interrogazione possibile, ad ogni richiesta. E se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l'abbiamo tradita, se abbiamo continuato attraverso gli anni ad amarla, a servirla con passione, possiamo tener lontano dal nostro cuore, nell'amore che portiamo ai nostri figli, il senso della proprietà. Se invece una vocazione non l'abbiamo, o se l'abbiamo abbandonata e tradita per cinismo o per paura di vivere, o per un malinteso amore paterno, o per qualche piccola virtù che si è installata in noi, allora ci aggrappiamo ai nostri figli come un naufrago al tronco dell'albero. Pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscano tutto quanto gli abbiamo dato, che siano assolutamente senza scampo quali noi li vogliamo, che ottengano dalla vita tutto quanto a noi è mancato. Finiamo col chiedere a loro tutto quanto può darci soltanto la nostra vocazione stessa. Vogliamo che siano in tutto opera nostra, come se, per averli una volta procreati, potessimo continuare a procrearli lungo la vita intera. Ma se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l'abbiamo rinegata e tradita, allora possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori di noi, circondati dell'ombra e dello spazio che richiede il germoglio d'una vocazione, il germoglio d'un essere. Questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione. Avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione, perché l'amore alla vita genera amore alla vita. Michela Cescon ha letto Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.